No, amore mio, sono solo anch'io. No, no, e allora con la cassa palla adesso si balla. No, no, no, perché mi hai lasciato dentro il mio cuore. Yeah, yeah, e allora questo è il destino che lo vuole. Per te gli occhi sono Zallaro. Io te lo dico, tu sei popo grezza. Perché io, amore mio, sono Zallaro, Zallaro anch'io. E questo è il mio diretto, scritto e composto da DJ Mauletto. Che t'ha visto, Bill Gates, che no, che fa lo Windows.